Quando l'altro compagno, era il nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra. Lucia girò la testa indietro atterrita e cacciò un urlo. Il malandrino la mise per forza nella carrozza. Uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò, per quanto lei si divincolasse e stridesse, a sedere di rimpetto a sé. Un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza, lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera. L'altro, che le aveva fatto quella domanda traditora, rimasto nella strada, diede un'occhiata in qua e in là per vedere se fosse accorso qualcheduno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno. Saltò su una riva, attaccandosi a un albero della macchia, e disparve. Era costui uno sgherro d'Egidio, era stato, facendo l'indiano, sulla porta del suo padrone per veder quando Lucia usciva dal monastero. L'aveva osservata bene per poterla riconoscere ed era corso per una scorciatoia ad aspettarla al posto convenuto. Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione e li richiudeva subito per il ribrezzo e per il terrore di quei visacci. Si storceva, ma era tenuta da tutte le parti. Raccoglieva tutte le sue forze e dava delle stratte per buttarsi verso lo sportello, ma due braccia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza. Quattro altre manacce ve la puntellavano. Ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo, il fazzoletto veniva a soffocarglielo in gola. E intanto tre bocche d'inferno, con la voce più umana che sapessero formare, andavano ripetendo: «Zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi male». Dopo qualche momento di una lotta così angosciosa, parve che s'acquietasse, allentò le braccia, lasciò cadere la testa all'indietro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile, e quegli orribili visaggi che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un mescuglio mostruoso. Le fuggì il colore dal viso, un sudor freddo glielo coprì, s'abbandonò e svenne. «Su, su, coraggio!» diceva il nibbio. «Coraggio, coraggio!» ripetevano gli altri due birboni. Ma lo smarrimento ad ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci. «Diavolo, par morta!» disse uno di coloro. «Se fosse morta davvero!» «Oh, morta!» disse l'altro. «È uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualcheduno, uomo o donna che fosse, c'è voluto altro!» «Via!» disse il nibbio. «Attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni e teneteli pronti, che in questo bosco dove si entra ora c'è sempre dei birboni annidati. Non così in mano, diavolo! Riponeteli dietro le spalle, gli stessi. Non vedete che costei è un pulcin bagnato che basisce per nulla? Se vede armi è capace di morir davvero. E quando sarà rinvenuta, badate bene di non farle paura. Non la toccate se non vi fo segno. A tenerla basto io. E zitti, lasciate parlare a me». Intanto la carrozza, andando sempre di corsa, s'era inoltrata nel bosco. Dopo qualche tempo la povera Lucia cominciò a risentirsi come da un sonno profondo e affannoso e aprì gli occhi. Penò alquanto a distinguere gli spaventosi oggetti che la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri. Alfine comprese di nuovo la sua terribile situazione. Il primo uso che fece delle poche forze ritornatele fu di buttarsi ancora verso lo sportello per slanciarsi fuori, ma fu ritenuta e non poté che vedere un momento la solitudine selvaggia del luogo per cui passava. Cacciò di nuovo un urlo, ma il nibbio, alzando la manaccia col fazzoletto, «Via!» le disse più dolcemente che poté. «State zitta, che sarà meglio per voi! Non vogliamo farvi male, ma se non state zitta, vi faremo star noi!» «Lasciatemi andare! Chi siete voi? Dove mi conducete? Perché m'avete presa? Lasciatemi andare! Lasciatemi andare!» «Vi dico che non abbiate paura, non siate una bambina e dovete capire che noi non vogliamo farvi male. Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi 100 volte se avessimo cattive intenzioni? Dunque state quieta!» «No, no, lasciatemi andare per la mia strada, io non vi conosco, vi conosciamo noi!» «Oh, Santissima Vergine, come mi conoscete? Lasciatemi andare, per carità. Chi siete voi? Perché m'avete presa?» «Perché c'è stato comandato. Chi ve lo può aver comandato?» «Zitta!» disse con un visaccio severo il nibbio. «A noi non si fa di codeste domande!» Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere e con la testa bassa e le gote rigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, «Oh, diceva, per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare, cosa avevo fatto di male io? Sono una povera creatura che non v'ha fatto niente. Quello che m'avete fatto voi ve lo perdono di cuore e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morir tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui, il Signore mi farà trovare la mia strada.» «Non possiamo.» «Non potete? Oh Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché?» «Non possiamo, è inutile, non abbiate paura, che non vogliamo farvi male. State quieta e nessuno vi toccherà.» Accorata, affannata, atterrita sempre più nel vedere che le sue parole non faceva nessun colpo, Lucia si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini e può, quando voglia, intenerire i più duri. Si strinse il più che poté nel canto della carrozza, mise le braccia in croce sul petto e pregò qualche tempo con la mente. Poi, tirata fuori la corona, cominciò a dire il rosario con più fede e con più affetto che non avesse ancor fatto in vita sua. Ogni tanto, sperando d'aver impetrata la misericordia che implorava, si voltava a ripregar coloro, ma sempre inutilmente. Poi ricadeva ancora senza sentimenti, poi si riaveva di nuovo per rivivere a nuove angosce. Ma ormai non ci regge il cuore a descriverle più a lungo. Una pietà troppo dolorosa ci affretta al termine di quel viaggio che durò più di 4 ore e dopo il quale avremo altre ore angosciose da passare. Trasportiamoci al castello dove l'infelice era aspettata. Era aspettata dall'innominato, con un'inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia volontà di vendetta, ora nel metter le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Dall'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntar la carrozza e venire innanzi lentamente, perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga e domate le forze dei cavalli. E benché dal punto dove stava a guardare la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocco ai fanciulli, la riconobbe subito e si sentì il cuore batter più forte. «Ci sarà?» pensò subito e continuava tra sé. «Che noia mi dà costei! Liberiamocene!» Paolo Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.